La lingua batte. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute anche stamattina all'ascolto della Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana. Oggi parliamo dei secolari, anzi millenari rapporti tra italiano e arabo. Io nasco da una famiglia mista, mio papà è siriano, esiliato politico, più volte rinchiuso in carcere in Siria, mentre mia madre è italiana, e noi abbiamo sempre vissuto nella nostra famiglia in una completa armonia tra le religioni. Non c'è mai stato un problema se mia mamma era cristiana o mio padre musulmano. E la questione della felicità araba, piuttosto che quindi del libro che ho scritto, La felicità araba, storia della mia famiglia e rivoluzione siriana, è esorcizzare il dolore, e quello che è il dolore di mio padre, quella che è l'ereditarietà del dolore. Marco Mancini insegna glottologia all'Università La Sapienza di Roma ed è attualmente capo dipartimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nei suoi studi si è occupato di latino, di greco antico, di ebraico e lingue iraniche, di storia della linguistica e, appunto, il motivo per cui oggi l'abbiamo invitato qui alla Lingua Batte, di storia della lingua italiana con particolare attenzione ai contatti con le lingue orientali. È proprio prendendo spunto dal suo libro Gli esotismi nel lessico italiano che oggi siamo qui a parlare di lingua italiana e lingua araba. Mancini, l'apporto dell'arabo all'italiano comincia in realtà già prima che si possa parlare di una lingua italiana propriamente detta, e comincia nel Medioevo. Quali sono le strade che portano le parole arabe nei nostri volgari medievali? Ma l'influsso dell'arabo e delle sue varietà dialettali sulla compagine linguistica italiana è stato lungo nel tempo e vasto dal punto di vista anche quantitativo. In realtà il numero dei prestiti arabi in italiano nelle successive stratificazioni diacroniche, cioè storiche, è stato veramente impressionante. Probabilmente pochi di noi sono al corrente di questo fatto, che anche oggi forse suonerebbe come un messaggio importante per quello che è anche il dialogo solo linguistico fra il nostro mondo e il mondo dell'Islam. I ponti, come qualcuno li ha chiamati, attraverso i quali i prestiti arabi e più in generale i prestiti orientali sono giunti all'italiano, sono fondamentalmente quattro, così come li codificò intorno agli anni 48-49 dello scorso secolo uno studioso di filologia romanza che si chiamava Steiger. Questi ponti erano la Spagna, la cosiddetta Sicilia arabica, cioè l'isola siciliana al momento della conquista da parte delle truppe arabe, il Medio Oriente e direi soprattutto il Vicino Oriente per quello che riguarda i regni crociati, e infine le vie commerciali, quindi soprattutto le vie che provenivano dal lontanissimo Oriente. Pensiamo solamente a quella che era la via della seta, che passava attraverso l'Asia centrale per approdare appunto sulle coste oggi del Libano e di Israele, dove avvenivano scambi intensissimi di merci preziose che connotavano anche un certo aspetto favoloso dell'Oriente rispetto agli occhi, in quel caso, del Mediterraneo e delle genti mediterranee. Lei diceva giustamente: se sapessimo, se avessimo coscienza di quante parole d'origine araba usiamo tutti i giorni, se solo riflettessimo che albicocca o carciofo sono parole d'origine araba, ma quali sono, come dicono i linguisti, i campi semantici, cioè gli ambiti, i raggi d'azione in cui le parole d'origine araba si sono diffuse di più all'altezza del Medioevo, diciamo dal Medioevo al Rinascimento? Ma dunque, i campi semantici sono moltissimi e dipendono fondamentalmente dalla natura del contatto linguistico fra le genti arabofone e le genti, in questo caso, italofone. Quanto più il contatto è intenso e presuppone, per così dire, un livello di forte bilinguismo da parte dei parlanti, tanto più è frequente che si tratti di voci che investono molti campi semantici della vita quotidiana. Il caso più evidente è proprio quello dell'arabo parlato in Spagna, così come nell'arabo parlato appunto in Sicilia. C'è una forte somiglianza fra le due situazioni linguistiche, anche se il contatto in Spagna durò praticamente 7 secoli, mentre quello invece in Sicilia fu più episodico, limitato soprattutto a 3 grandi vallate della Sicilia, tra cui per esempio la Val di Noto, la Val di Mazara, e quindi si tratta di un contatto circoscritto dal punto di vista geografico. Però i campi semantici investiti da questo contatto sono tutto sommato abbastanza affini. Riguardano fondamentalmente le tecniche dell'agricoltura, alcune merci, ma soprattutto voci che concernono il mercato di ogni giorno, quindi il mercato della frutta, per esempio. Lei ha citato giustamente alcune voci che notoriamente discendono dall'arabo, in alcuni casi sono in realtà antiche voci persiane passate attraverso l'arabo. Un altro campo semantico assolutamente fondamentale per i contatti fra il mondo arabofono e il mondo, diciamo, romanofono e italofono nella fattispecie è quello delle scienze. La maggior parte del fondamento, della struttura del lessico scientifico occidentale si basa proprio sul lessico arabo. Proprio grazie a questa intensa attività di traduzione di questo lungo percorso che dall'Oriente persiano arriva sino alle spiagge, per così dire, del Mediterraneo, lungo questo percorso si sono scambiati molteplici termini di natura squisitamente tecnica. Basti pensare al linguaggio di quella che oggi è la chimica, ma che allora era ovviamente una disciplina specifica che si chiamava alchimia, parole che hanno a che vedere sia con i materiali sia con gli strumenti, l'alambicco ad esempio, anche un termine arabo. Zenit, algoritmo e poi cifra e zero da una stessa base araba, Mancini. È così, si tratta di uno di quei casi abbastanza frequenti per cui una parola araba come as-sifr, che appunto significa fondamentalmente vuoto, viene ad avere una doppia connotazione semantica a seconda di quello che è il doppio percorso a cui è sottoposta. Devo dire che da questo punto di vista questi termini hanno costellato il nostro cielo in senso proprio tecnico, perché la maggior parte dei nomi delle stelle studiati insomma molti anni fa da grandi orientalisti sono appunto di derivazione araba, no? Aldebaran per esempio, Betelgeuse, sono tutti nomi di stelle che provengono appunto dalla tradizione astronomica araba. Lei prima parlava di una origine remota persiana per carciofo e albicocche, allora possiamo distinguere da un punto di vista terminologico tra arabismi e islamismi? Ma il problema è un problema da un punto di vista, diciamo, storico-culturale piuttosto interessante. È chiaro che se io dovessi limitare l'analisi a quello che è l'archetipo remoto, cioè l'etimo vero e proprio in senso tecnico di una parola, dovrei distinguere, come è chiaro, tra persianismi da un canto e arabismi propriamente detti, cioè tra parole da un canto di origine indoeuropea, per capirci, cioè le parole persiane, e parole invece di origine semitica, in questo caso parole appunto arabe. Però la verità è che la maggior parte di queste parole facevano parte di una sorta di koinè culturale che era quella appunto legata alla Ummah, a quella che era il mondo religioso ed etnico accomunato dalla fede islamica, come lo è ancora oggi peraltro. L'Islam, che ricordiamocelo, aveva l'arabo certamente come lingua di riferimento, soprattutto l'arabo coranico, quindi l'arabo direi soprattutto letto piuttosto che parlato, come una lingua modello, cioè una lingua alta da questo punto di vista. Ma è altresì vero che accanto all'arabo convivevano altre varietà linguistiche, a seconda ovviamente della regione, per lo più varietà dell'arabo parlato, per esempio nel Maghreb, nell'Africa settentrionale, varietà invece genealogicamente diverse, dalle sacche dell'aramaico nel vicino Oriente Antico, sino appunto al persiano nell'Asia centrale, o alle varietà del turco naturalmente. Non casualmente il turco veniva chiamato dagli eruditi, dagli stessi eruditi turchi, Üçlisan, che in turco significa le tre lingue, persiano, arabo e turco propriamente detto. L'arabo è parlato attualmente da circa 300 milioni di persone ed è parlato sia in Asia sia in Africa. Se teniamo conto dei recenti flussi migratori, dobbiamo pensare che è parlato anche attualmente in Europa. È una lingua che porta con sé una cultura, questo va detto di tutte le lingue, ogni lingua evidentemente veicola una cultura. Nel caso dell'arabo è una cultura estremamente carica di senso perché è una cultura religiosa ed è quella inaugurata da un libro, il libro sacro dell'Islam, tutti sappiamo essere il Corano. Mancini, facciamo un salto ulteriore e arriviamo all'epoca contemporanea, quella che lei chiama l'epoca dei neo-islamismi. Quali sono le parole che il tardo Novecento ha portato da questo mondo neo-islamico nell'italiano? La cosa interessante è che questo contatto con i neoislamismi e con la realtà, diciamo, dell'Islam contemporaneo è avvenuto lungo un canale che paradossalmente non è molto diverso da quello del linguaggio scientifico del Medioevo, perché ancora una volta si tratta di un canale eminentemente scritto, con tutti, diciamo, i problemi che questo genera. E un caso classico, per esempio, è il nome di Assad, che viene pronunciato con una doppia S ancora oggi, semplicemente perché è una grafia di tipo francese, perché l'area della Siria era un'area anche francofona, di un nome che in realtà è Assad, dove la S è una S sorda, quindi in francese se la S viene scritta da sola viene pronunciata sonora, se viene scritta doppia è sempre scempia, cioè sempre una sola, ma viene pronunciata sorda. Cioè non quindi... mas. Ci sono molti casi in cui tra l'altro noi usiamo queste parole in maniera non proprio corretta, Mancini, scambiamo maschili e femminili, singolari e plurali, ci può fare qualche esempio? Credo di essere l'unico sulla faccia della terra che quando parla di una persona al femminile che si comporta da strenua difenditrice di una teoria dice Pasdari, credo che sia io l'unico sulla faccia della Pasdaran terra. Pasdaran è plurale in realtà. Pasdaran è il plurale di Pasdar, anzi Pasdar in pronuncia persiana, che vuol dire letteralmente colui il quale protegge. Un caso classico, per esempio, è quello di Fedain. Noi usiamo dire un Fedain, ma Fedain in realtà è plurale. Come continuiamo a dire un Mujahidin, e anche Mujahidin è plurale. In è il plurale esterno tipico dell'arabo parlato e che viene però, ahimè, utilizzato in questa maniera, come appunto Pasdaran. Del resto non ci dimentichiamo che il nome cruciale del mondo islamico, cioè musulmano, in realtà è un plurale, come talebano in realtà è una singolarizzazione di un antico plurale. Il jihad o la jihad? Il jihad. Perché è maschile? Perché è maschile, certamente. Noi diciamo la jihad perché ovviamente il genere è quello di guerra. I jihadisti o gli jihadisti? Qui c'è una sottigliezza in più. In realtà la pronuncia, non mi faccio cogliere in castagna, la pronuncia, diciamo, dell'arabo classico prevede in questo caso un j, quindi i jihadisti. Ma siccome nell'arabo parlato per lo più questa africana diventa una fricativa sonora, cioè j, allora si tende a dire gli jihadisti. Quando vediamo, leggiamo, sentiamo parole come cyber jihad, ecco, cyber jihad e parole simili sono neo-neo-islamismi o piuttosto islamismi ibridi, visto che c'è un prefissoide americano? Chiaramente la seconda, cioè sono chiaramente delle ibridazioni morfologiche basate su un materiale che proviene in questo caso dal fondo, per così dire, islamofono e al tempo stesso però chiaramente adattare alla morfologia della lingua, in questo caso anglosassone. Forse una cosa che andrebbe in qualche modo studiata con attenzione è il processo di spostamento del giudizio implicito all'interno della semantica di questi termini. Mi spiego. Sappiamo benissimo che molti termini di origine esotica, proprio perché corrispondono a realtà percepite come ostili, tendenzialmente hanno una sfumatura, come dire, di natura negativa. Un caso classico che io cito sempre in questi casi è quello di un termine che non è penetrato in italiano, ma è penetrato nell'inglese americano, che apparentemente indica una realtà importante nel mondo islamico, e cioè coloro i quali hanno effettuato il pellegrinaggio alla Mecca, che si indica in arabo con il termine haji. Ma nell'inglese americano, probabilmente nel gergo nato presso i militari, credo in area mesopotamica, quindi in Iraq, haji è diventato un termine dispregiativo, come dire Bosch, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, Crucco o quello che sia. E allora, per concludere, Marco Mancini, dal suo punto di vista, quello del linguista, del glottologo, fino a che punto tiene questa storia dello scontro tra cultura, dello scontro tra civiltà? La storia linguistica dei contatti fra arabo e mediterraneo, diciamo così, fra mondo arabo e mondo mediterraneo, fra lingue islamiche e lingue romanze soprattutto, insegna che il Mediterraneo è il famoso stagno intorno al quale ci sono le rane di cui parlava Platone nel Fedro e intorno al quale noi continuiamo a dialogare. La vecchia tesi Pirenne, no, dal nome dello storico belga, che prevedeva sostanzialmente che con l'ingresso degli arabi nel Mediterraneo si produsse una vera e propria cesura fra il mondo, come dire, settentrionale e il mondo meridionale, è semplicemente una fantasia. La storia dei contatti fra mondo islamico e mondo occidentale insegnano esattamente il contrario. Continua osmosi, continui rapporti, vero e proprio trasporto di idee, concetti, fenomeni culturali. Quindi è una lezione che il passato, come sempre deve essere, dà al presente, di cui dovremmo far tesoro. Certo, oggi come oggi il momento è molto difficile, ma credo che comunque questa storia storia dovrebbe insegnarci moltissimo. Io ho tantissimi amici scrittori. Vincenzo Consolo, che io ammiro moltissimo, è un mio legame con la Sicilia, perché io cerco anche di farmi adottare da questa letteratura siciliana, perché io come arabo non vengo in Italia ma ci torno, nel senso in Italia attraverso la Sicilia ci sono le mie radici. Leonardo Sciascia è un esempio emblematico. Sciascia è un nome arabo che vuol dire cappello. Sciascia stesso ha ricordato queste sue origini arabe in un'intervista bellissima sul Panorama nell'87. Racalmuto, il paese natale di Sciascia, è un nome arabo, vuol dire villaggio morto, perché gli arabi, quando sono arrivati in Sicilia, hanno trovato un paese abbandonato a se stesso e hanno portato la civiltà. Anche oggi nella nostra Accademia d'Arte Grammatica a rispondere c'è Valeria Della Valle. Il dubbio a cui risponde è quello di Dora, che ci ha chiamato da Roma. Buongiorno, mi chiamo Dora e volevo avere, delle delucidazioni in merito a un termine che ho sentito anni e anni fa quando sono stata per un periodo a Milano. Io sono di Roma, sono andata su a Milano per uno stage, poi per lavorare, e ho sentito un giorno dai miei colleghi di lavoro dire: ah, oggi sei malmostosa. E io sono rimasta a bocca aperta perché non avevo letteralmente idea di che volesse dire. E poi un po' loro me l'hanno spiegato, però vorrei avere dei chiarimenti e capire bene innanzitutto cosa significa e poi capire anche un po' l'origine, l'etimologia di questa parola, perché anche il suono così mi diverte, è curiosa, ecco. A proposito di malmostoso, ricordo ancora quando moltissimi anni fa ho letto per la prima volta la parola che ti ha colpito. Credo, anche se non posso esserne certa, però ne ho conservato memoria, che malmostoso fosse in un articolo di Oreste Del Buono, e questo lo ricordo, era usato dallo scrittore a proposito di una famosa attrice di cui ricordo il nome ma che non citerò. Oggi l'aggettivo, che un tempo era noto solo ai milanesi, era usato solo più o meno in Lombardia, ecco, oggi si è diffuso anche fuori dei confini della Lombardia, quindi è arrivato nel linguaggio comune e soprattutto direi è presente molto spesso nell'uso giornalistico. Con quale significato? Ma col significato di scontroso, sgarbato, scorbutico, molto contrariato. Ecco, lo potremmo anche tradurre in un certo senso con musone, che forse rende bene l'idea. Ecco perché lo dico. Ma perché la parola malmostoso deriva dal dialetto milanese malmostos, cioè mal, male, e mostos, sugo. Quindi malmostoso vuol dire che dà poco sugo, che fa poco sugo, no? Quindi che dà poco, che rende poco. Malmostoso è registrato ormai in tutti i dizionari della lingua italiana, sia quelli dell'uso, sia quelli storici. Lo sapevate che la dogana ha viaggiato nel tempo e nello spazio? Sapevatelo. Si parla spesso in queste ultime settimane di tornare a innalzare barriere, di ripristinare confini e dogane, e ci si dimentica che le parole, invece, viaggiano libere da secoli. La parola dogana, ad esempio, ha origini lontane, sia in senso temporale sia in senso geografico. Infatti arriva in Italia nel Medioevo, poco dopo l'anno 1000. Arriva attraverso il turco, ma ha un'origine persiana. La parola persiana da cui deriva è diwan, la stessa parola da cui proviene anche l'italiano divano. Solo che in quel caso il tramite è stato l'arabo. Con diwan gli arabi indicavano un tipo di sedile lungo. Dato che gli uffici erano generalmente arredati con questo tipo di sedili, il vocabolo passò a indicare prima genericamente un ufficio pubblico e poi specificamente l'ufficio della dogana. E per rimanere in tema, da un'altra parola araba, kabala, che voleva dire garanzia, cauzione, contratto, viene anche l'italiano gabella, cioè tassa. siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino! Il saggio di questa settimana è un libro che si intitola semplicemente L'etimologia. È stato appena pubblicato da Carocci Editore ed è stato scritto da Daniele Baglioni. Baglioni insegna linguistica italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia e oltre che di etimologia si è occupato anche della diffusione dell'italiano nel Mediterraneo e poi di fonologia storica dell'italiano e dei dialetti. Le parole italiane di origine araba sono tante e appartengono agli ambiti più diversi, dal commercio alla marineria, alle scienze, anatomia, astronomia, chimica, matematica, e fino ai nomi di tessuti e di strumenti musicali. Al di fuori poi di questi ambiti specialistici ci sono arabismi che usiamo correntemente nella vita di tutti i giorni, come arancia, limone, zucchero, tazza oppure anche ragazzo. Proprio ragazzo costituisce un caso interessante perché deriva da una parola araba, raqqas, che in realtà vuol dire ballerino e dunque è abbastanza distante dal significato della parola italiana ragazzo. Il cambiamento di significato si spiega per il fatto che nel Maghreb medievale con raqqas si indicavano i corrieri, cioè quelle persone, quasi tutte di giovanissima età, che portavano lettere o messaggi da un ufficio doganale all'altro e che per il loro essere in continuo movimento sembravano quasi fare una danza, e di cui il nome di raqqasin, cioè ballerini. Quando poi la parola dall'arabo è arrivata all'italiano, il significato originario di ballerino si è completamente perso e c'è stata invece un'estensione del significato di giovane corriere, al punto che la parola è passata a indicare tutti i giovani, corrieri e non corrieri. Un altro caso curioso è quello di facchino, che deriva dall'arabo faqih, che è parola che vuol dire legale, giureconsulto, e che in particolare nel Medioevo veniva utilizzata in riferimento agli ufficiali di dogana. Qui il processo che si è avuto è stato non di estensione ma di degradazione del significato, per cui la parola che indicava gli ufficiali di dogana è passata a indicare i sottoposti degli ufficiali, cioè i trasportatori di merci, e questo probabilmente per una confusione che si deve non agli arabi ma ai mercanti italiani. Oggi le parole che dall'arabo arrivano all'italiano sono meno numerose che nel Medioevo, ad eccezione di qualche nome di piatto tipico come couscous, falafel, kebab, riguardano quasi tutte l'Islam, le sue istituzioni e formazioni politiche o terroristiche di matrice islamica. Prendiamo per esempio Sharia, Imam, Hezbollah, Jihad o anche Daesh, che è l'acronimo dell'espressione araba Ad-Dawlat al-Islamiyya lil-Iraq wal-Sham, cioè Stato Islamico dell'Iraq e della Siria. Fa eccezione quello che parebbe essere il più recente degli arabismi dell'italiano, e cioè la parola Taharrush, che nelle scorse settimane è stata utilizzata da alcuni giornali in riferimento alle violenze di gruppi di immigrati su donne tedesche nella passata notte di Capodanno. E che è parola che sembra diffondersi sempre più in rete, se è vero che già esiste una pagina Wikipedia dedicata a questa parola. E anche se il Taharrush è stato presentato come il nome di un rito, addirittura di un gioco perverso della cultura araba, la parola e anche l'oggetto indicato hanno in realtà molto poco di tradizionale. In particolare la parola Taharrush, o meglio l'espressione Taharrush Jinsi, è un neologismo piuttosto recente che equivale banalmente all'italiano molestia sessuale e che, come l'italiano molestie sessuali, è modellato sull'inglese sexual harassment e quindi come tale effettivamente è poco utilizzato nella lingua comune e si ritrova quasi solo nelle cronache dei giornali o nei verbali di polizia. L'idea che dell'etimologia avevano gli antichi è molto diversa da quella che abbiamo noi oggi. lo stesso nome di etimologia, cioè discorso, logos, intorno al vero, etymon, rivela che per i greci trovare l'etimologia di una parola equivaleva a cogliere la vera essenza, la vera natura dell'oggetto indicato da quella parola. Nel Medioevo poi l'etimologia diventa addirittura il presupposto stesso di qualsiasi forma di conoscenza umana. E lo dimostra il fatto che nella maggior opera enciclopedica del tempo, cioè le etimologie o etimologie del vescovo spagnolo Isidoro di Siviglia, si parte proprio dall'origine delle parole per trattare di tutto lo scibile umano, dal diritto alla storia, all'astronomia, alla musica, alla matematica. Si capisce allora che, così concepita, l'etimologia era molto diversa anche nella tecnica. Nell'antichità e nel Medioevo la priorità infatti era quella di interpretare i nomi, accostandoli in maniera più o meno fantasiosa ad altre parole del greco e del latino e facendosi guidare esclusivamente dal significato, mentre la forma delle parole rimaneva nettamente in secondo piano. L'etimologia, come la intendiamo oggi, invece, ha perso l'ambizione di essere uno strumento di conoscenza assoluta e si accontenta di essere uno studio puramente linguistico. Di conseguenza si fa guidare più dalla forma che dai significati delle parole, perché la forma cambia in maniera più regolare e permette quindi ricostruzioni più vicine al vero, meno arbitrarie. C'è poi oggi una concezione delle lingue che è più dinamica e dunque risulta naturale cercare l'etimologia, l'origine di una parola, in una fase linguistica del passato, che è in genere il latino per le parole dell'italiano, oppure l'indoeuropeo per le parole latine, e soprattutto vige il principio fondamentale per cui la soluzione a un problema etimologico può essere una e una sola, e non necessariamente la più bella, nel senso di la più ingegnosa o la più celebrativa. Anche se i fondamenti dell'etimologia moderna sono stati fissati ormai più di due secoli fa, i principi dell'etimologia prescientifica sono duri a morire, in particolare in un certo modo di fare etimologia amatoriale o diciamo pure dilettantesco. C'è infatti ancora una visione dell'etimologia come interpretazione retorica dei nomi, secondo cui le parole conterrebbero al loro interno la loro stessa definizione, nascosta magari in forma di sigle oppure di anagrammi o persino di sciarade. Per esempio, è molto diffusa l'idea che la parola snob derivi dall'abbreviazione dell'espressione latina sine nobilitate, senza nobiltà, perché lo snob originariamente sarebbe stato il parvenu, e dunque quello che si dà aria da ricco senza poterselo permettere. Ora, paradossalmente, la ricostruzione della storia della parola è corretta, perché ancora nell'Ottocento snob aveva effettivamente il significato di persona che si dà aria da ricco e non il significato odierno di persona che ostenta atteggiamenti sofisticati e che per questo si sente superiore agli altri. A essere sbagliata però è l'etimologia, perché snob non è una parola di origine latina, ma deriva dall'inglese snob, che era la parola per ciabattino originariamente, ma che poi nel gergo degli studenti dell'Università di Cambridge è stata usata con il significato di chiunque non era studente e dunque di persona rozza che non può permettersi un'istruzione. Squarci rossi apriranno cielo. Gli eterni su Istanbul, le cadute scopriranno l'equilibrio della nobiltà, ma ricordo scivolai un angolo di rose dentro i giardini tuoi. Io mi perdo nella nebbia della vita in cerca di noi. Chi sa di lei li sarichi dal fannuso tuani tu sa dal madini o te vanno fin d'un e Istanbul. Per la rubrica Scuola Pop, per lo Scuola Pop della lingua batte, abbiamo oggi ospite Nabil Salamé, ovvero uno dei due fondatori dei Radio Dervish. Nabil Salamé, di origine palestinese, in Italia già da ragazzo, ha fondato appunto insieme a Michele Lobaccaro quel gruppo che prima si chiamava Al Daravish e poi è diventato Radio Dervish. Nabil Salamé questa mattina è qui con noi in collegamento da Bari, buongiorno. Buongiorno a lei. Nabil, il primo disco dei Radio Dervish si intitolava, forse non a caso, Lingua contro Lingua. Era il 1998, ma direi era proprio un modo per fondare le basi di un discorso musicale che però sui testi e sulle lingue dei testi fa molto affidamento. È proprio, diciamo, che rappresenta il motto del nostro lavoro sulle lingue, sul multilinguismo. Io sono nato e cresciuto in un paese, il Libano, dove la gente normalmente per strada, per dialogare, per conversare, proprio una cosa molto normale, molto tranquilla, molto quotidiana, potrebbero passare dall'inglese al francese all'arabo per esprimere un concetto da comunicare. Quindi, essendo nato e cresciuto in questo contesto, non poteva non essere tra le cifre che abbiamo messo al centro del nostro lavoro questo aspetto multilinguistico nella comunicazione. C'è una frase di Elias Canetti che abbiamo messo non su Lingua contro Lingua, ma su un altro album che comunque rispecchia sempre questo lavoro di multilinguismo, nella quale dice Canetti: e se le lingue più disparate del mondo avessero tra di loro un legame segreto? Quindi forse questo, più che un'interrogazione, è una specie di affermativo che in realtà rispecchia il nostro modo di vedere questo legame segreto fra le lingue e fra le sonorità delle lingue, perché spesso nel nostro lavoro non ci affidiamo soltanto al significato, ma spesso ci affidiamo anche al suono delle lingue in quanto un elemento atavico che è comunicazione e comunicativo al tempo stesso. Quell'album, Lingua contro Lingua, nel 1998 vince il premio Ciampi come miglior esordio discografico dell'anno. Quello che voi chiamate cantautorato mediterraneo, perché appunto il premio Ciampi è un premio per la canzone d'autore, come si è evoluto questo suono e questa ricerca sul testo nell'arco di questi anni e nell'arco di altri 10 album? Perché l'ultimo, del 2015, Caffè Gerusalemme, è il vostro 11° album, Nabil. All'inizio non eravamo consapevoli di questa dimensione, di questa collocazione, ma tantomeno di questa terminologia che abbiamo, come si può dire, cristallizzato o maturato durante questi anni di carriera musicale e artistica, ma anche un percorso personale. Tant'è che all'inizio, insomma, la cosa che potremmo dire col senno di poi, magari con la consapevolezza e la maturità di oggi, è che i testi o la lavorazione sui testi era piuttosto una specie di accostamento, non di compenetrazione. Man mano che andavamo avanti, man mano questo stile, diciamo, prima di arrivare alla terminologia cantautorato mediterraneo che abbiamo coniato, non so se l'abbiamo coniato noi o se ne siamo, ce ne siamo impossessati, sì. Però è una cosa che ci è venuta dopo. Negli ultimi due album abbiamo iniziato ad utilizzare questo termine, questa terminologia, però all'inizio pensavamo piuttosto a un lavoro multilinguistico, al multilinguismo, ma non a uno stile che in qualche modo possa in qualche modo inventare una nuova espressione letteraria, perché in realtà, così come il concetto di identità, così come amiamo pensarlo, non è un arrivare, non è un approdo, ma è una partenza continua. Pensiamo che sia anche così per la lingua, perché comunque è un contenitore, un veicolo che man mano che passa attraverso il tempo raccoglie, carica, ospita, si allarga, si fa fecondare. Quindi il vocabolario, anche lo stilema letterario, lo stile di scrittura potrebbe essere allargato ad altre innovazioni, tant'è che poi, insomma, nell'ambito della letteratura italiana contemporanea ce ne stanno tanti autori, scrittori nuovi, diciamo, che non sono italiani d'origine o che saranno nati qui, però, insomma, che hanno radici altrove, che in qualche modo si sono, vogliamo dire, impossessati della lingua italiana, l'hanno resa loro e sicuramente hanno aggiunto anche uno stile che è contenitore anche del loro passato e delle loro radici e del loro vissuto, diciamo, che va a travalica, diciamo, questi confini italiani. Let me rest with you. Thank you. lo Scuola Pop della Lingua batte questa mattina in Radio Dervish, questa mattina Nabil Salamè in collegamento con noi da Bari. Abbiamo aperto questo spazio con una canzone intitolata Istanbul e adesso abbiamo sentito in questa Cardamom di nuovo intrecciarsi lingue diverse. Possiamo dire però che la vostra musica è anche una musica che rappresenta un viaggio. Si parlava negli anni Ottanta, Nabil, di world music, no? Di questa musica mondiale, forse globale oggi diremmo. E la vostra musica però si ambienta, si radica in atmosfere di città. Abbiamo sentito Istanbul, ma il vostro ultimo disco è Café Jerusalem. Beh, le città ci hanno sempre attratti, ci hanno sempre affascinato, ci hanno sempre sedotto, diciamo così. Istanbul o Gerusalemme come Istanbul ha questo stesso fascino, questa stessa attrazione, con un elemento in più, un esponenziale in più. Considerate le mie radici, diciamo, io sono figlio di profughi palestinesi e quindi questa città risuona particolarmente dentro la mia storia, dentro le mie radici. Quindi è stato anche un omaggio ad una città che abbiamo vissuto in modo molto intenso io e Michele, perché in passato abbiamo trascorso diciamo vari periodi nella città di Gerusalemme. Addirittura Beyond the Sea l'abbiamo proprio concepito proprio lì. L'album del 2009. Esatto, ed eravamo ospiti in un convento di suore salesiane. Avevamo due celle come due monacelli e quindi la nostra lavorazione dell'album Beyond the Sea è iniziata proprio lì, nel convento delle suore salesiane a Gerusalemme. E lì abbiamo conosciuto molte persone che sono tornate, insomma, come se fossero la chiusura di un cerchio perfetto, così. Tra queste c'è Paola Caridi. Paola Caridi, assolutamente, che l'abbiamo incontrata lì, l'abbiamo incontrata prima a Bari, diciamo, per una presentazione di un suo lavoro, poi l'abbiamo rincontrata lì a Gerusalemme e insomma è stata la nostra guida, diciamo, in questa città, che l'abbiamo vissuta sempre attraverso il nostro immaginario, io personalmente attraverso i racconti dei miei genitori, una città, un paese, una terra che non avevo mai vissuto, che ho sempre vissuto però attraverso un immaginario trasmesso. E lì sono nati le prime righe, diciamo, di Paola, di questo pièce teatrale. Perché voi spesso lavorate anche con una multimedialità, oltre che multiculturalità e multilinguismo, Nabil Salamè. Ci sono spesso dei progetti teatrali che si accompagnano ai vostri dischi. Sì, perché insomma la letteratura, i libri, il teatro, insomma, sono anche al centro del nostro laboratorio, del nostro botteghino, ecco, artistico. Ci riteniamo artigiani. Piccoli artigiani, quindi l'artigiano non disdegna nulla di quello che potrebbe servire per costruire un pezzo nuovo del suo artigianato. C'è una figura collettiva che domina anche alcune canzoni dell'album, quella degli Acavati. Chi sono gli Acavati? Ma gli Acavati sono i cantastorie che animavano questi luoghi di aggregazione sociale, quali sono i caffè, le piazze, i teatri. Sono delle figure, diciamo, che io ritengo o definisco custodi della tradizione orale, della storia orale, della popolare. Quindi queste figure sono quelle persone che ci ritrasmettono, che ci narrano in modo un po' surreale quello che è la storia, dandoci spunti appunto di considerazione un po' inusuale, oppure d'angolazione un po' inusuale rispetto ai fatti reali, che spesso sono anche evocatrici di nuove elaborazioni, nuove vedute, nuove considerazioni sul nostro presente e sulla nostra realtà. Sembrano il Virgilio della nostra storia popolare, che portano la nostra immaginazione, portano la nostra memoria dentro questi veicoli di storia popolare, di racconti, di narrazione che davvero ci rivelano dei lati bellissimi, dei lati molto evocativi della nostra letteratura orale. Ça, c'est une histoire d'un courage et d'obscurité. L'illusion. Smile, Acavati. Nello spazio dedicato all'italiano nel mondo, il mondo in italiano, Cristina Faloci ha sentito per noi Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista, autore del libro Il feroce saracino, la guerra dell'Islam, il califfo alle porte di Roma, un libro pubblicato da Bompiani. Buttafuoco, lei scrive che Goethe ha agognato per primo un'Europa convertita all'Islam addolcito dal Mediterraneo. E volevo chiederle allora su quali parole, su quali basi comuni tra Oriente e Occidente, tra Islam e Cristianesimo potrebbe fondarsi un'Europa siffatta? Immagino parole diverse da quelle su cui è basato il racconto di questa rabbia globale che stiamo vivendo. Beh, forse bisogna correggere la nostra prospettiva. Non è tanto la rabbia quanto il Mediterraneo, addolcito da pomeriggi che sono greci nella visione di Goethe. Ed era soltanto una lingua, non certamente il sangue, non certamente quella nazione, perché l'impronta che ne abbiamo ricavato e che ci trasciniamo ancora oggi era proprio mediterranea. E forse l'esempio più potente è quello del tedesco che volle farsi arabo per vivere in Sicilia, cioè Federico II, che più di ogni altro seppe contenere dentro la sua stessa missione un qualcosa che a Palermo ancora si riconosce in una parola semplice, zisa, che non è solo un quartiere, è una parola presa dalla lingua araba che traduce tutto ciò che è bello, tutto ciò che si predispone alla meraviglia, per cui ancora oggi chi si fa bello, chi si apparecchia, si azzizza. Buttafuoco, quindi più che di conversione all'Islam, lei ha parlato di ritorno. In che misura è anche un fatto estetico-culturale? Lei l'ha appena detto, quanto hanno inciso insomma le sue radici siciliane e la sua formazione? È un ritorno perché l'Islam storicamente, poi nella sua essenza di religione universale, è la sintesi di quella che potremmo definire con un termine forse non scientifico, ma radicato nella dottrina e nel sentimento religioso, è appunto la tradizione primordiale, è questo presagio del Dio unico che accompagna da sempre tutte le grandi espressioni spirituali nel mondo, siano esse in India, siano esse in Europa, siano esse perfino nelle lontane Americhe, dove un grande poeta come Borges ebbe immediatamente la percezione di un qualcosa che universale lo faceva avvicinare, arrivare a quello che forse un anonimo, misterioso e solitario beduino portava dentro di sé come il seme di una lingua potentissima, avvolta nel segreto e non certamente nel mistero. Buttafuoco, restiamo sulla lingua e sulle parole. In un momento di generale crisi del sacro possiamo dire che cadute le ideologie, sono arrivate invece le ideologie, i fanatismi religiosi. Cosa pensiamo proprio al significato letterale di Islam? Più che di scontro di civiltà possiamo forse parlare di equivoco, di fraintendimento. Per intendere bene il significato di Islam posso proporre una via laterale e ci affidiamo ad un filosofo della contemporaneità, Martin Heidegger, quando spiega il concetto di abbandono. Islam, che erroneamente viene tradotto nella versione esorcistica di sottomissione, è appunto un abbandono, è un immergersi nella potenza del creato, attraversare il cosmo e arrivare all'unico vero titolare del tutto e perfino del niente, cioè Dio, perché di fronte all'onnipotenza di Dio altro atteggiamento non c'è che quello dell'abbandono. C'è un insegnamento profondo sia nelle azioni dettate dallo stesso profeta Maometto, sia poi nello sviluppo di quella che dovrebbe essere la legge, wasat, la via di mezzo, il tentativo di mediare sempre fra le esigenze terrene, mondane. L'Islam, a differenza di altre religioni, ha la consapevolezza della precarietà della vita terrena, dove nessuna parola scritta può determinare l'onnipotenza letterale. Tant'è vero che il fanatismo costruisce accanto all'orrore anche la più potente delle bestemmie, cioè quella di voler attraversare con una sola parola, fosse di proibizione o di assenso, un'idea di eternità che invece è negata dalla frale natura umana. Ed è il tentativo di sostituirsi a Dio. Ecco la più potente bestemmia. Buttafuoco, cos'è che oggi un occidentale, un europeo, secondo lei dovrebbe apprendere assolutamente del mondo e della tradizione islamica? Innanzitutto apprendere la propria identità, conoscere se stesso, nel senso di riconoscere il percorso di storia e di memoria che identifica l'europeo in quanto tale. Uso parole non mie, quelle di Franco Cardini: se solo i cristiani avessero consapevolezza della cristianità, non potrebbero che amare l'Islam. E viceversa, se solo i musulmani conoscessero a fondo l'Islam, non potrebbero che amare la cristianità. Non fosse altro perché i due soggetti chiave della identità, sia musulmana che cristiana, sono Gesù e la Madonna, ovvero sia Miriam e Isa. Non fosse altro perché è un percorso dove la memoria degli europei ha trovato un veicolo, ha trovato un sentiero, un percorso agevole, tant'è vero che grazie all'Islam abbiamo avuto la possibilità di accogliere nella nostra memoria tutto ciò che dell'Ellade rischiava di andare smarrito. Attraverso un sentimento universale abbiamo la capacità di poter legare l'idea stessa di Roma come luogo universale in quello che poi è dilagato nel mondo, tant'è vero che, e ancora una volta rubo parole non mie, ma quelle di un grande orientalista, qual era Pio Filippani Ronconi, gli dei di Roma, fuggendo, hanno trovato rifugio in India, e noi sappiamo quanto forte è il senso di comunità e di comunione nell'intero continente eurasiatico, dove tutte queste pagine di civiltà altro non sono che raggi di una stessa luce. Un'ultima curiosità per finire Buttafuoco. Nel 2012 lei ha dichiarato: per me i 5 libri da leggere assolutamente sono il Santo Corano, i Veda, l'Iliade, le storie di Tito Livio e Pinocchio, indicando quindi alcuni libri fondanti dell'Islam, dell'induismo, della civiltà classica greca e romana che hanno dato poi le basi ovviamente alla nostra cultura europea e non solo. Viene spontaneo chiederle perché Pinocchio e perché in questo sincretismo spirituale tra le grandi culture cui lei sembra di fatto aspirare resta fuori proprio la Bibbia. E mi chiedevo, è un giudizio solo letterario il suo? Mi permetterei di rifiutare il termine sincretismo. Non c'è sincretismo in questa scelta. Diciamo è proprio il percorso dell'universale. E la domanda è perché non c'è la Bibbia? Perché già l'Iliade è sufficiente. E poi l'Iliade porta inevitabilmente al Bhagavad Gita. E dal Bhagavad Gita, nel sorriso di Krishna, bambino che crea il mondo e per cui ogni risata genera poi altre parti del creato, mi ha portato a quel pezzo di legno la cui lettura più affascinante resta quella che ha dato il Cardinal Biffi. Un libro delizioso, prezioso, il commento del Cardinal Biffi al Pinocchio, dove tutti ci possiamo riconoscere, proprio perché materia grezza, quale siamo, carne uguale al legno, aspiriamo a qualcosa che attraverso l'azzurro del cielo ci porta a considerare la nostra vera identità, che è quella di accostarci alla bellezza, alla grandezza e all'eterno. 10 dicembre 1198. Muore Averroè, filosofo, medico e matematico arabo. Rimane nella storia del sapere e della cultura occidentale per le sue traduzioni di Aristotele, senza le quali il grande filosofo greco sarebbe stato pressoché dimenticato, e per gli enormi contributi dati nel campo dell'astronomia, della medicina e della fisica. Come parola della settimana abbiamo scelto oggi qui alla Lingua Batte civiltà, e per approfondirne echi e significati abbiamo la fortuna di avere ospite, dallo studio di Bari, Luciano Canfora. Canfora è professore emerito di filologia classica all'Università di Bari ed è saggista di fama tale da non richiedere ulteriori presentazioni. Mi limito quindi a citare i suoi ultimi libri, che sono Augusto figlio di Dio, pubblicato da La Terza, e Gli occhi di Cesare, la biblioteca latina di Dante, pubblicato da Salerno Editrice. Canfora, lo scorso 12 gennaio lei ha pubblicato nel Corriere della Sera un articolo intitolato Tradurre significa comprendersi, arabi e bizantini ce lo insegnano. Parto dalla sua conclusione. Il fenomeno dei trasferimenti di civiltà è una goccia di saggezza illuministica in un mare turbato sempre più di frequente da ondate di oscurantismo. Qual è il fenomeno dei trasferimenti di civiltà? Quando, per esempio, i romani cominciano a tradurre la letteratura greca, Taranto è un avamposto greco nell'Italia meridionale, un prigioniero di guerra, si chiamava Livio Andronico, traduce l'Odissea in latino e si apre, per così dire, si inaugura la letteratura latina e la vicenda prosegue con fenomeni molto simili. Lucrezio traduce il Perifuseos, il trattato sulla natura di Epicuro, e lo volta in esametri. Cicerone tradurrà, per esempio, il pensiero greco, in particolare Platone. Insomma, le civiltà si trasmettono attraverso questo atto straordinario che è capire la lingua degli altri. Al tempo stesso, questo atto produce una nuova civiltà, una nuova letteratura. Indubbiamente la discussione se la letteratura romana sia stata o no originale è una discussione mal posta. È nata traducendo ed è diventata perciò stesso originale. A proposito di cultura araba, lei nel suo articolo cita Humayn ibn Isaac. Grazie per avermi aiutato. Grande personaggio, grandissimo. Siamo addirittura prima dell'anno 1000. Qui il trasferimento di civiltà è verso la cultura araba, sempre partendo da quella greca. Esatto, perché l'Egitto, dove lui ha a un certo punto operato, siamo nel IX secolo d.C., è diventato provincia araba dopo la conquista di Alessandria nel 640. E l'Egitto era una delle perle dell'impero bizantino, di antica cultura greca dal tempo di Alessandro Magno, quindi 9 secoli di grecità. Non è scomparsa la grecità di botto perché sono arrivati gli arabi, ma gli arabi hanno immediatamente cercato di leggere e capire le opere greche che ancora si conservavano lì, per esempio nel Serapeo distrutto non più, ma in altre biblioteche sì, scuole di filosofia, scuole di scienza matematica, geometrica, di medicina, e gli arabi hanno cominciato a conoscere la scienza greca da questo contatto. Direi di più che a loro volta hanno messo in salvo opere greche che a Bisanzio non erano più raggiungibili e i bizantini sono andati a cercarle nel califfato, a Baghdad, nella cosiddetta Casa della Sapienza, creata da un saggio califfo. Ecco come nasce una letteratura di traduzione anch'essa, cioè quella araba, che crea un pensiero originale, filosofico-scientifico, arabo. Che poi ritorna e viene reimportato dalla cultura occidentale, Canfora. Passando dalla Spagna, e dalla Spagna rientra in Occidente, per cui si passa dall'arabo al latino, e un grande personaggio secoli dopo, come Tommaso d'Aquino, tradurrà Aristotele, il testo che ha davanti, che non è in greco, ma in latino. Allora Aristotele parte, diciamo, da Atene, arriva ad Alessandria, l'opera, si capisce, lui muore nel 322, prima ancora che questa storia abbia inizio. Ad Alessandria il testo aristotelico interessa gli arabi lo portano in Occidente estremo, dall'Occidente arabo passa in latino, dal latino diventa il pensiero di San Tommaso. Luciano Canfora, lei citava prima il califfato, e proprio la definizione di califfato, lei dice in apertura del suo articolo, è una definizione impropria, non vi è nulla di più sciocco dell'adozione del termine califfato da parte dei banditi xenofobi e xenoctoni dell'ISIS, lei scrive. Sì, perché è chiaro che ci si richiama ad un grande passato quando si vuole riaffermare la propria presenza. Il califfato di oggi, che è sostanzialmente una emanazione criminale di potenze oscure, non tutte visibili, dall'Arabia Saudita ad altri centri di potere, si richiama al califfato perché il califfato è la più grande esperienza culturale di civiltà che il mondo islamico abbia prodotto quando è sorto e quando si è affermato nel grande teatro del bacino mediterraneo. Una grande esperienza culturale, lei racconta, però non solo tollerante ma avida di aprirsi ad altre culture a quell'epoca. Esatto, sì, ma i nostri amici cristiani, dice Humayn ibn Isaac, ad Alessandria studiano Galeno, alla stessa maniera che Fozio studia i testi più o meno negli stessi anni nel cuore della capitale bizantina, essendo egli niente meno che il patriarca ecumenico della Chiesa d'Oriente. Questa frase affettuosa, i nostri amici cristiani, come scrive Hunayn, ci deve far riflettere. Il nipote di questo patriarca che si chiamava Fozio, questo nipote era Nicola Mistico, cercava di avere dall'emiro di Creta testi che a Bisanzio non aveva ancora o non aveva più. Questa esperienza entusiasmante è documentata in tracce, singole testimonianze, ma possiamo immaginare che è stata molto più generalizzata, al punto che uno studioso francese vivente, bravissimo e anche abbastanza fantasioso, scrisse una volta, alla metà del Novecento, nel 1957, che forse tutta la grande biblioteca di Fozio l'ha composta a Baghdad, perché forse è andato a Baghdad e lì ha trovato libri che non trovava a casa sua, per esempio i libri degli eretici cristiani, soprattutto nestoriani e monofisiti, i quali avevano trovato accoglienza presso il califfato, perché nel mondo islamico quella che per i cristiani è una eresia che vede in Cristo solo una natura è un tipo di eresia molto attraente, dato l'estremo monoteismo dell'Islam, no? Che è molto più oltranzista sul versante del monoteismo che non per esempio il cristianesimo, che è alle prese con la famosa Trinità, non si capisce sono uno, sono tre, eccetera. Per loro è uno solo e quindi i monofisiti cristiani sono loro amici e hanno trovato ospitalità presso di loro. Anche questo è un modo di trasmettere cultura, di trasmettere esperienza, di trasmettere testi. Cultura, esperienza, testi, libri, biblioteche. Luciano Canfora, per concludere proprio sulle parole, abbiamo detto dell'uso improprio o diciamo forzato di califfato. Torniamo per un attimo alla parola civiltà. Ecco, questa espressione che ormai da diversi anni si sente ripetere dello scontro tra civiltà, di là dalla correttezza del significato, in che modo usa la parola civiltà, parola appunto di tradizione latina, e in che modo ne forza i limiti in chiave, possiamo dire, ideologica? Beh, quella l'ha inventata Huntington, no? Sì. Huntington è la caricatura di un grande storico inglese, Arnold Toynbee. Toynbee scrisse un bellissimo libro intitolato Il mondo e l'Occidente, in cui il mondo subisce, per così dire, nel corso dei secoli, dopo la invenzione della polvere da sparo e delle navi con navigazione a vela, subisce la sfida del piccolo e aggressivo Occidente, che andando alle spalle dell'impero turco conquista l'Asia meridionale, che dall'altro versante conquista le Americhe. Le varie civiltà reagiscono a questa sfida, dice Toynbee, reagiscono assimilando la civiltà occidentale e trasformandola in se stessa. Quindi porta l'esempio dell'India, del Giappone, della Russia, del Nord Africa. Questo è il grande Toynbee. Huntington, che vive nell'ultimo tempo della Guerra Fredda, depriva una tale intuizione storiografica riducendola ad un conflitto senza esclusione di colpi in cui l'uno distrugge l'altro. È l'esatto contrario di quello che il grande Toynbee aveva capito. Softly, Ruhminal Arya al duja finnaw wa sahwati haflati hina. Ed eccoci arrivati anche per questa domenica al momento dei saluti. A salutarvi e a ringraziarvi ci sono qua io, che sono sempre Giuseppe Antonelli, e con me ci sono la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Un grazie va oggi ai tecnici Luca De Ioris, Giovanna Insardi e Riccardo Orsini. Vi ricordo una volta di più, una volta ancora, i nostri contatti per la posta elettronica, lalinguabatte@rai.it, per Facebook lalinguabatte-radio3, per il web la nostra pagina lalinguabatte.rai.it. Vi ricordo anche che venerdì prossimo, il 19 febbraio, nelle sedi predisposte dai referenti regionali si terranno le semifinali delle Olimpiadi d'Italiano. Le Olimpiadi d'Italiano organizzate dal MIUR, con la collaborazione dell'Accademia della Crusca e dell'Associazione per la Lingua Italiana, sono arrivate quest'anno alla loro sesta edizione e quest'anno è stata un'edizione del record, con più di 43.000 iscritti da quasi 900 scuole diverse. Le finali si terranno come sempre a Firenze il 18 e il 19 febbraio. Noi della Lingua Batte ci saremo e vi racconteremo tutto in una puntata speciale che andrà in onda domenica 27 marzo. Il nostro prossimo appuntamento però resta sempre lo stesso, domenica alle 10.45, quando la Lingua Batte su Radio 3. Falahfi wa shajwal sababati wal jawa wa wajida al fuadi in hiya illa dhalal an-nur.